ma se non dobbiamo parlare, se non è imbecille, cosa ci rifai? Adio, stai tranquillo. No, questo è il mio problema, perché non mi interessa nessuno, perché quindi non mi interessa nessuno, ma anche tu, vediamo di più. No, qua non si tratta di fermarlo. Qua si tratta di parlare tranquillamente, senza mille termini. Dunque, lo so, come parlo io, se devo dire una cosa, gli era ricco, si finisce lì. Ed è quello che penso, quello che gli ho detto di persona e quello che continuo a dire. Quindi per imbecille dirai un mezzo, io non so cosa Luca continua a dire, io non ho fatto niente. Però io, siccome nel passato di Luca non ci sono, quindi cosa mi gioco che avrei visto? Si tigurnosi, non si tigurnosi, se si si recitazione, si avrei liberato 20 anni fa, cosa ne sai io chi è? Io non è bello, ma se fate a me le portanti non sono meglio. Come fanno, no, come fanno io, eppure abbiamo fatto delle cose. Ma qua che gli ho detto Luca, io gli ho detto anche questo, che ormai non stava più entrando, mi hanno detto che non sapevo, poi quando ero finito ieri mi pare, oggi ecco, non me ricordo, hanno cominciato a dorare abbastanza, quindi è quello che voglio capire io, o darsi anche Luca, se adesso ti fugge qualcosa dalla mente, hai avuto un problema qualcuno, magari manco già gli dice vale la fino, ha saputo un segno e ti buona abbastanza. Ma sto parlando per assurdo, cosa ne so io, sto dicendo. Claudio, no, comunque claro, non ti preoccupare, già si risolve il problema, tranquillo. Io credo sì Luca, per te, per noi e per tutti quanti, perché a questi livelli è vergognoso davvero. Io già non ho un problema né con te né con nessuno. Conosco te, conosco tuo fratello molto bene, vi conosco di vista a tutti. Non credo che ci siano problemi, quindi io non ho problemi con nessuno. Pertanto se qualcuno sarà con me lo dica, se sarà con Luca lo può anche dire. Però se nascondersi dietro il microfono viene facile a tutti. Io non so quindi se si guarda dietro il microfono, se c'è un problema allora la fronte di persona, se si può chiarire con la bocca, si chiarisce con la bocca, se non vuoi bisogna trattare le mani, se vuoi trattare pure le mani. Dimmi Roberto. Se volevo sapere se la luce è già ordinata, non so. Ah, perfetto, la 25 è perfetta. La 25 è normale. Ok, dai, basta, ti sto ascoltando che c'è delle persone in macchina, sto parlando. Se da tutti. Se da tutti. Claudio, se da tutti. Se da tutti. Ok, dai, problema microfono, sto differenziando. Sentiamo tra un po'. Quando c'è la macchina, ragazzi. Cosa? Quando c'è la macchina, così di quello. Se compro 4.000 benzina, perché questo sto qui. Sentiamo un istante, dai, sto ascoltando. Lo so, anche la mia è troppo piccola. Ma il compro una più grande, mi compro il camion, mi compro il camion, mi compro. Perché il bello. Mi sei rimasto qua in buon ordine, con tranquillità e saggezza che ti fanno parlare. Guarda, ci sei. Che parlo allora, io. Ma cosa parlo qua, visto queste cattura di altre, e non c'è di cura? Sono all'ascolto. Hai un segnale leggermente più basso del solito, però già va bene. Anche queste cose, ma devi dire che nel 2006, sto iniziando nel 2006, non si può chiarire più con nessuno, cioè uno sta disturbando, ti invitano, ti fanno, cioè, non si può più parlare con nessuno, oggi la gente si difende con i cosi, no? con gli stessi, vuoi dire un buon abbastanza, che dato si tratta di aprire l'antenna, di dire buono il lago, ti dà un gatto di oggi che ti fai domani, cioè, ma dove siamo arrivati? No, questo è solo questo di un stazionale, non ho fatto parlare con te, non ho fatto. Dicendo io, dai, però non mi sono, ma già so, neanche se io avrei fatto niente. Non so che non posso niente, aspetta. Ciao, ciao, ciao. Sentiamoci prossimamente. Beh, Va bene, se prendi Luca. Sono fatto lì, con me. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Stefano, se ti stai ascoltando, io non sempre sono al foro, però ci sono queste. Oh, ma vediamo, ma perché chiama Robert? Ma perché ti chiami Robert? No, se no avrei risposto. Perché lo sentiamo? Ciao Robert! Ma come sei? Dove si rende nella valle? Nella valle? No, non mi sento, ma nella vallata del secondo vialotto verso i paesi qua, no? Lì è un casino. Siamo tutti piccoli e neri. Ma tanto, ho chiamato? Stavo chiamando e poi c'era la bambina che mi stava tirando il braccio. Roberto, mi ascolti a me, sì? Ma sei qua, sono attento. Ma sì, un attimo, va a fare il controllo, dai, non via. Ah, ma mi piace perché sono avanti, però non ti diamo anche a me. L'inizio della tecnologia, ma non sapevo cosa è di già, ma non vuol dire che sei un raccordatore. Carissimo Roberto, grazie. Che calcolazione fa andare a sistemare come cavallo? Va bene, ma non vuol dire che ti accordi non bruci nulla, non vuol dire che sei accordato, anche se sei come cavallo, non è che succede niente, no? Ma non ti accorgo neanche, non ti accorgo neanche, ma così te la me la giù con te, via. Quindi fa di prestazionare, sono di Roma stessa, ho già. Già, una volta che ti accorgi sei accordato, stai accordando l'antenna, mica stai accordando il baracchino. Ciao, credo chiaramente che per accordarti ti deve levare un po' di potenza, però una volta che sei accordato dovresti appunto la sera con la bordante fissata. Ma quanto anche mi hanno messo? No. Mi sono iniziato. Ti ha pagato. E tu Luca, vediamo com'è la situazione, perché con un vario di guerra se n'è andato. Guarda, il padre voi parlate. Non mi sono dato lo Luca, se non mi comprendi allora. Paura di avere. Ma ti trovi una questione qua, dai. Tu non vuoi niente, tu devi parlare, capito? Questo che si sente, avete finito, tu devi parlare. Parla, tutti dici, parla normalmente. Intanto Gianni, ancora che si sentono. All'inizio manca qualche parola a me, tu parla. Comunque Gianni, tu come a te dopo l'effetto, smontare il cavo, me un po'. Se è in corto, vuol dire che non ho messo la chiave dentro. Stavo aspettato dentro. Sicuramente, ma se è scritto la cosa del niente, la cosa del niente. No, non è possibile già, perché adesso non messo uno stile avessi avuto, altro che la stazionale avessi avuto, ma è stato un lago dello sguardo messo in cima di una calbace. E tu gli manca il CRL, gli manca tutto se gli mettono un lago, e tu gli manda messo il corpo il cavo, la fissa. No, Marco, sì. Ma lui, se ti fa con l'accordatore, sta tre di stazionario. Sì, non è più meglio, se tu prendi praticamente il cavo, lo metti tutto in corto, con un lago, con uno spino, con tutti i bagni di viaggi, non riesci neanche ad accordarti. Cioè, tu puoi andare a mattare un cavo, ma tu vuoi che niente. Non riesci ad accordarlo per niente. Beh, ormai sono saliti dall'altra parte, per non fare rumore, hanno cercato di tirare il cavo per strappargli, hanno attaccato la calza, e lui sta facendo solo col polo caldo. Sì, ma tu puoi pure che la calza non sia attaccata, ma quando hanno tirato il cavo si sia un po' smagliata la calza all'interno del cavo e quindi abbia varato l'impedenza. L'unica è quella già. Vediamo un po', se domani non piove, vediamo un'occhiata di a cosa vuoi qui, porto quella scala di nuovo, parliamo. Tu si tratta qua di provare con un altro cavo e boh, se ce la metti un'altra stazione, 20 metri, 10 metri, quanti sono? Lui si mette il piede, lo butti giù la fine alla fretta, lo attacchi e provi. L'unica è così. Ma poi, ma ha mangiato te ne di quello fino? Di quello fino, ha mangiato te ne era? Ehi, ma non lo so quanto mettervi a Gianni. Boh, non so, giusto per fare la prova. basta saldare le due strivelle intestate e fare la prova, perché quello lì è buono a casa. 25 metri? No, non ci sono. Non penso, perché non ho fatto un pezzo io. Vabbè, quello che si è provato a fare. Io non ho. Quello che c'è a me, facciamo un 35 metri, così. Davanti a Natalino. L'altro che ho comprato, l'ho tutto usato, ho già vestito. Mamma mia, Giara, ma te lo immagini che hanno fatto una cosa del genere, già? Oh, Claudio. Ma non mi attivo a farla, dimmi, vabbè. Se mi stanno per fare una prova, io ce li ho un po' di RG213 e RG Grossi. 58-213. 58 molto, no? Due sessioni da 25, quelli che servono a me per mettere sulle altre antenne appena piazzo tutto. Vabbè, ma se siamo già due le attaccate, va bene, ma sono fatta, capito? Facciamo due dall'antenna, facciamo quello, lo buttiamo nella finestra e già ne trova. Se non si fa stazionare, che è tutto normale, vuol dire che, come ha detto Luca, gli hanno messo in corto il capo. Uno di PLC, l'altro non me lo ricordo, dovrebbero essere, diciamo, sono due cavi stronzi perché erano quelli delle V. Allora, vabbè, bisogna che facciamo questa prova. Noi facciamo questa prova, andiamo in Vagiano, un attimino, io porto la chiave, ci devo mancare quelle doppie, salgo su e faccio questa prova, perché, se ne basta una cosa di via, già io domani mattina, tu lavora, lo sai. Hai studiato il corario? Arrivo alle 11, vedi. Io sono alle 11. Poi domani anche fine anno. Cosa vuol dire già? Devi aspettare a lunedì. Ma già, lo facciamo lunedì. Lo facciamo lunedì pomeriggio, se sei libero. Lo abbiamo fatto sempre, tutte le cose le dobbiamo fare. Vengo lì, lunedì lo facciamo. Io ho intanto il cavo, lo tiriamo tutto, lo ricontrollo con le dita, intanto si blocca, se non metto l'ago si tocca. A Maragan si blocca. Già, quando sei libero. Quando sei libero me lo dici, che abbiamo sempre fatto, si va lì e si fa lavoro. Perché quello è... quelli sono veramente i farabutti. Vedi Luca cosa vuol dire, se si può discutere, se si può ragionare e mettere a posto le cose, perché tu devi rovinare quello che io mi sono creato? La stessa cosa vale per te, se tu stai comprando una radio, chi mi regola per parlare, perché non deve rovinare il tuo questione, la tua cosa? Se quello non capisce, se non fa un problema, si discute e basta, come già si sta in qui a rompere le balle. Vabbè, giusto. Comunque, quando hai salito tu prima, chi ha giocato da nessuno? Ah, nessuno. Ah, che gli anni passati. Ah, nessuno. Sicuro, a 1000 per 1000. Poi, se la prenderemo lì a casa, come non si dà, non ha il coraggio. Sì, ma era l'anno passato, capito? Perché in radio, io mi ricordo gli anni passati, io quando aprivo bocca, tutti mi venivano a boccata, che erano simpatico a tutti, quella, poi a uno a uno, signore, io li trovo, c'era un bravo, capitava, un greffa, ma bella Rai, ma tu dici, come si apre la bocca, lo capivo, un attimo sì, quello che fa la radio, ma io Barattino, no, poi Martino, tu sei tizio, ok, sei il sogno, ma non è stato lui che mi fai di male a me, vedi là, c'è problema, e a uno li ho trovati, capito? Il mondo è piccolo, ma è ricco, è un invalido, è un disgraziato, capito, che non sa che cosa fare e si butta su di te, no, perché le sei antipatico alla radio, capito? Però magari ti conosci di persona e le sei simpatico. Ecco perché io dico, vedersi di persona a volte fa anche bene. Cappa. Non c'è problema, facciamo girare, avanti il giallo. Ma che la già. Sì, ok. Quando va sul piano? Perché? A che ti vuoi meglio? Ma chi è a me? Ehi. Che? Vai giù. Già lo so io. Dove ti sei piantato? Sotto casa? Ma la stazione sta nel corso di qua, al distributore delle sigarette, dove sei dice? Noia. Ma che pensate di fare Roberto? Gambe in forma quando va? Ma che ti metti qui per qua Roberto? Non so di buca a me. Un cazzo di ora, la stazione. Vabbè, ma che poco, che ne tifo, ma io devo mettere, forse vai di ragione, tutti mi viene l'osio. Perché? Cosa sta succedendo? Dicemelo, dicemelo. Allora, un attimo, vabbè, se volevo vedere attenuato quanto sei. 1, 2, 3, 4, 5, 9:30 è attenuato. Vabbè, dai, che poco. Ma non ho mai toccato il problema con la radio. Ma non l'hai toccato lo zucchero andando di prima? No, io mi sono toccato il prima. E tu c'è il manuale servizio di questo apparecchio. Non ho toccato niente, per assicurarti che ti ha fatto toccare da qualcuno prima. Se l'apparecchio me l'hanno dato così, non è che... non è la roba mia questa, no? Quel manuale servizio, hai visto che sono i trimmer del... della ricezione della trasmissione? Sì, ma non ho toccato io, cioè non l'ho messo per niente, anche perché la parte che volevo che interessava a me era tutta l'altra parte. I primi sono sul lato di destra, a me io ho lavorato sul lato di sinistra, aperto al libro, vista frontale. Perché era così subito. Quando c'era l'acqua, voi li hanno toccati per prima, è troppo generoso come può essere. Vabbè, Roberto le bombe forte, ma anche per dire, io a Luca gli arrivano 25, non so se gli arrivo sempre 25, a te 9:30, e tu sei più distante, come mai? Vabbè, ma c'è, là, il discorso è da smitter a smitter, capite? Beh, io se mi chiamato un po' come quando la gente è bravo e glielo regolo, solo che è il tipo di regolazione che puoi fare se non hai tutta una certezza matematica, cioè non puoi regolare questo esempio, dopo magari chi si chiama il mio nome ma arriva un inglese, chi si chiama il mio nome ma arriva un motto. No, se tu lo vuoi fare bene, vieni qua una sera, se sei libero, mi telefono, vieni qua. Noi mettiamo sotto il commutatore di antenna, l'8650 e quella radio. Con la stessa antenna io prendo un segnale di un questo che c'è, tipo per dire, il segnale di Gianni qua, o il segnale di Luca, il segnale di chi sta trasmettendo, con l'8650 e passiamo lo stesso segnale al 140, perché secondo me è troppo aperto quello smith. Ma sicuramente magari saranno comunque gli esempi o le persone che lo sai, no? Un bacio per lui, mi sta creando un bacio a vista. Io avevo il 440 così, capito? Adesso l'ho tutto tarato, tutto messo a posto, perché aveva alcune cosettine da verificare, ma contatto evidentemente qualcuno, cioè, quando... non questo che c'ho, è l'altro che c'ho avuto. Quando è passato di mano, si è messo lì a fare il vivo, non sapendo che determinati trimmer vanno fatti con strumenti particolari. E praticamente quando l'avevo preso, a te l'ho detto che balla, però mi avevo fatto dare il preamplificatore d'antenna ad Annello. Lui ha detto un preamplificatore d'antenna, il segnale per sapere dagli 20 dB, no? Ma è stato questo, proprio 20 dB il preamplificatore era. Attaccavo, per dire, modulavi tu su una radio, ed era 9:20. E ricevevo sull'altra, ed era 9. Questo è stato a 9:20, e in quali chi è? L'ho aperto e l'ho parato a 9:20 dell'altra radio. Ed era perfetto. Quando l'ho venduto non mi hanno mai detto ma. Sì, certo, perché quando non sanno che trim, su che trim devono agire, giocano con tutti, io basta portarlo, mi immagino che sono tutti con i tutti a posizione ora. Infatti, rispondi Luca, ma tu come ti metto col baracchino? Ti chiamato la vedi lo smicchio? No, qua. Ma tu hai sistemato quello o ne hai messo un altro? No, un altro ne ho messo, un altro Giulio. Sempre della stessa radio proprio. Ma allora, uguale, uguale identico. A me funziona bene. Dava, dato per me il telefono. Allora. Senta, non c'è più. No, era in quell'inchiesto che andava a vedersi un film, ma portanto non ce n'è, quello che Luca sta parlando, evidentemente questo invalido ha capito, insomma, di chi deve far parlare, perché altrimenti non è che si può andare avanti così. Sì, già si sente prima lui sicuramente. E adesso? Vabbè, sì. Ma così a cadere la volo, stanno a prendermi le cose del tipo che domani mattina le devo pagare. Paga. Questo è 9 più 20, ma Antonio non lo so. Per questo è 9 più 40 adesso. È più basso di prima è più alto. Ed ero più lontano. E vedo di vita. Vuol dire che in una zona c'è la mia antenna è più a vista. Ah, in quel canale di ieri, ma stavo arrivando a Palla, la zona della stazione del 5 aprile, San Pietro, si arrivava a Fucilante, adesso qua ti devo rispondere quanto c'è. Vedi, capita molte volte che anche se sei distante, magari uno è più vicino, ma può essere uno più coperto dell'altro, quello più lontano si arriva a uno più forte, è normale, il futuro dell'essere. Sì, adesso qua vedo la tua antenna. Allora, qui dove sicuramente, perché da lì si vede per forza. Quindi, e da te Claudio, come? Prova. Olle, 1, 2, 3. 9.35. Al ponte, prima del ponte di Rosello, faccio più. 9.30.35. Ma la radio come ti faccio questo fuori? Normale. Va bene, non la ducca, va bene. Troppo dinamico originale, di cosa stiamo parlando? È bella la modulazione. Io lo sento bene, tu no, però. Ah, io lo sento benissimo, non ci sono problemi. Il microfono tuo originale, quello della iPhone, quello piccolino che sembra una busta. Bene, va. Tu, manco io lo so cosa sta ne fa cosa, ma non manco idea. Microfonino piccolo. Carlo, che fuoco! Ma che dici? Come vedi, non mi vedevo. Ah, sono andato sulla modulazione, guarda, non te ne comprendo, Cappa, abbassata. E adesso? Ah no, aspetta. Ecco qua, ma adesso va bene. Sai, Antonio, vedo l'ufficio appresso, un figlio di... Ma ne sono accorto perché c'è un sufficio di sento. Vai, mi sento l'antenna, aspetta, da bravo. Da vicino, da vicino. Da bugino. Smazza. Mantieni il baracchino, mantieni il baracchino, Antonio, te lo fa saltare. Ma sì, a me, solo gli altri lo sa che ti ho fatto tre cose. Ma come stai usando? Sempre il tuo baracchino, roba? O ne ho cambiato, o ne ho messo un altro? Sì, ho lì, che c'è stato quattro canali con il microfono tuo originale, basta, tutto finito. Un cappa. Ecco qua, adesso stanno nel clou del punto più alto di tutti, cavalcavia. Lindet, riprendo la tari. Sono io, Lindet, Non c'è te! Ah, la carina qua! Ah, la luce, alleluia! Che gli altri? Tutti questionando, stanno parlando, uno sta parlando in U, uno in Q, uno in L, uno in M, V. E io se la mia vuota. Io sono quasi arrivato, mi faccio gli auguri. Domani, Anto, sei a casa di tua madre? Sì, dimmi, scusami. Domani faccio tutte quelle prove, stasera ho una cosa da combinare e non posso farle. Domani si possono fare quelle prove là, se no dobbiamo rimandare dopo le vacanze. Andiamo per dire che non sapere qualche cosa, l'ho appena detto, perché per quale è nato, per la mia risposta. Io quello che ti ho detto, stasera non ho potuto fare nulla perché c'è questo impegno da rispettare. Se non c'è problema, se no vedi tu quello che... se no, sabato e domenica non è che sia un grande problema, si fanno le prove. Va bene, dai, lo proviamo domani sera, non è un problema. Non stiamo andando in America, tanto siamo in chiusi lì. Adesso strada per la cosa di Alghero, sono di fronte alla nuova costruzione di Volpinico, come sta andando qua? 925. Mi oggi la copiata migliore il suo normale microfono, no? Ciao, la bambina, un braccio, va bene, sta parlando, non mi comprendo, ne ha fede a essa. Andà bene, dai, chiudo che sono arrivato, che devo scendere qua giù a pedaletta. Ci sentiamo tra 24 ore, a domani, ok? Ciao a tutti, bacioni. Ciao, va bene, tante cose, non potete mettere. Ciao, vabbè, mi raccomando, se vedo mia sorella, dallo un calcio nel culo. Ma la mappa l'ha fatto. Ella è nera, come se la fece. E va a fare il pantalone in fucsia. E tutti i bagnanti. Ella, bella, mi si vede, ma sembra che stiamo a fare un calcio. Dallo un calcio nel culo. Ella, ella. Ciao Roberto, ciao Roman, Luca. Luca, è lunga questa telefonata. Al telefono ancora, mi prendi la parete. Ma lei già di Maputi, lasciate fare, lasciate fare. Tanto io continuo a dire sempre queste cose, quando uno vuole fare del male, le fa lo stesso. O con le mani forti o con le mani deboli. Quindi, ma che glielo fa? Anche mi ha detto, io si tratta di male, già fatto mica si è tracciato. Io ho fatto quello che fa parlare a lui. Vabbè, con chiunque terapia, il discorso è sempre quello, capito? Ciao Natale, io fino qua, ti ho ascoltato. Ciao Natale, buonasera. Ma di macchina sono, vai. Signora, qua mi state sentendo la realizzazione che mi tiro fuori. Capo, mi dispiace, ma questo sta andando della macchina, di più non posso fare. Yeah. Grazie, ciao, buon fatto Paolo. Non ti ho proprio parte con Luca, lo ritiro, guarda, lo ritiro perché è vergognoso, anche con gli altri qua, pensavo che l'avesse solo con Luca. Andiamo dove? Mi sto guardando, non nella stessa, sto guardando la televisione, ho sentito a Paoletto, nel senso entro e lo saluto, mi ha fatto piacere di averlo sentito, dopo tanto. Niente, tutto qua. Ma cosa faccio vedere? Lavorando la pezzo cavo, sottava alcuni minigufi e sbantenditi, adesso ti ascolto, Santiago Aonfe, radio Super 5, Super 5, ma questo qual è lui, quello che stai dicendo tu? Cappa! Ma quello vuole seguirti? Ehi, stavamo durante la mondiale, ma tu dici sei uscito? Questo che ti dici, boh, date che non è vera. Diciamo che lo stavo buttando col microfono, poi mi sono messo, diciamo, l'ho messo a posto. Ma quello che sta andando, senza problemi, vediamo un po', Paoletto, Paoletto, ancora mi ascolti? Gappa, gappa, andava bene. Vai tu per lei, vai, ripeti. Cosa vuoi che mi dica? Niente, stavo guardando la televisione. Riprendo, adesso vi lascio in compagnia di Franco perché me ne vado tutta quanta nella stufa perché c'è freddo qua. Al limite riprende lui, va. Comunque dai, saluto Claudio, saluto Paoletto, ciao Malavita, ciao Luca, ci rivediamo più tardi oppure domani mattina. Ok, ciao ciao, saluto a tutti. Sele. Dimmi, Nara Ridosso. E che la scegli domani mattina? Non lo so! Cos'è che ha da dire quello? Domani mattina niente perché devo fare l'acqua, perché devo fare quello che vuoi. No, ma domani mattina. Sono a cosa? Alle 10:30, dai. Oh. Se non ti voglio io la tua moglie non a te, a me di te non mi insulta, è già veneno, non hai capito, ve la vedo. Tu vuoi essere un mese domani con me? Con chi? Con me. E dove puoi andare? A donne. Allora non va a donne. E li dobbiamo andare a Cugutto, ma si chiama, e dobbiamo andare a Cugutto, ma non dobbiamo fare un paio di commissioni. Ma cosa vuoi a Cugutto? È un paese che non esiste. Bordo. A Cugutto dobbiamo andare, è un paese che non esiste. Capito me? Comunque tu domani mattina accompagna a Maria Luisa e se non l'accompagniamo assieme quando arrivo io da lavoro. Tanto io 9:30 siamo già a terra. Va bene, andate a casa. A signorina devo andare, in sì, a signorina, ora. E chi li vuole? Tu come il figlio di Sagre Marimontino, Maria Luisa. Ma ce n'è più lo felice. Sta sconsella adesso. Ma ragazzi, se non sta di passo a vai così buffa tutto in piedi. Ha preso il limoncello. Sa cosa che c'è in bottica a polpette? Sì, non c'è, ma polpette era unissimo bolotti. No, a polpette, le crocchette di riso. Ma che tra lui e la figliuzza? Certo, buono, ma lui non me l'ha lasciato a me. Sì, ce ne siamo un taglio. Certo, è il mio caso, dove la mangiamo, rimane a colazione. Fino a quasi buona Manuela. Cos'hai detto? E non fa prima Manuela. Fa prima Manuela. Ho detto, se non fa prima Manuela, adesso quando viene. Quanti l'aria Manuela, eh? Il tuo ragazzo arrasta l'odorra, fa chiaridare. No. Prima Franco si ha mangiato 4 banini con salame e maionese e la cosa ho mangiato un po' di piatto di bacalciuccia, un calcio, la cosa ho mangiato questi polpetti, 3 mandarini, salata, mi fa più buono, non mi voglio più, dai, è salata, ma era lui, adesso mi state passando quello che hai là. Allora lui, se ci sono già entrata, ha detto che la Franco non voleva l'abito. Mi dà il bagno che si va mangiato. Allora, aspettate un attimo, dimmi qual è. Tutto anche la parte mia e la parte... parte di mia moglie, da parte di tutti. Era un po' che ti ha ascoltato, tantissimi auguri, come voi tu, per fine, per inizio l'anno, poi. Fatti sentire che mi fa piacere, siamo sempre qua. Avanti, Teresa. Tanti auguri anche da parte mia, da parte della mia 50, Paolo, tanti auguri e buon anno anche a te e per il anno nuovo. Speriamo che l'anno 20 sia meglio di questo. Ma dove sei andato? Nella donna mia, Tony. No, per quello, perché sono lui che sono messi in mezzo. Il quale il gabinetto che c'è, gabino, chiamalo come tu, fai che devi mettere i signoracci, insomma. Ci sono quelle, come diavolo, le piante spinose, che ci sono. Hai visto, però da domani sta fanno a me questo qui. Questo qui che ci ha fatto le mele. No, veramente io gli ho fatti da via le stampiette, non c'ho niente da nascondere. Ah, non le fate dire questo qualcosa se per sbaglio, non so magari se lo stiamo sapendo, se si è portato qualche mese e ha distribuito le arance, no? No, negativo, io non c'ho niente da nascondere, li ho fatti da via le stampiette, da quegli alberini che c'erano lì. Comunque, la voglio vedere se mai manca l'arance da quel giardino. Quindi che quando sono buoni, come è passato Franco? Ma te ti ricordi quando ci facciamo, quando ci facevamo gli spuntini con la campagna, a base di dischette? Che lo so, non mi ricordo ancora che me lo ricordo. Comunque se mi faccio avanti, fammi, l'ho detto, non c'è quello che si scontra dove sono io. Tu vai avanti, non si va mai nessuno, ci sono quelle sette spinose, davvero, non si pensa. Ecco perché te lo anche dolci, insomma, anche parigiani, quelli altri normali, quelli per fare il frutta, e poi sono gli anzi, ecco mi ricordate come lo che è. E poi si dice, vabbè, vado fattivi. Scappa. La cosa di attuale devo anche mettere a arrostire. Qua questi dispetti che hai, tre, che succa, roba da fatti, 2 litri di vino. Ma è roba, deve stare pietro. No, lì alla campagna Antonello, non so se ce l'ha ancora. Tu gliela porto a torre. Ce l'ha ancora. Ma ci siamo andati noi, insomma. Non so se tu sei venuto fra la vetta. Con Franco sono andato un giorno in campagna, e andiamo assieme, visto che abbiamo detto di fare il suo. Ma stai scherzando? Oia. Di nuovo, Lance! Un dolce mangiato? Di tutta l'altra. Di che cosa? È attivo. Ah, Simona. No, non è attivo. Ho sentito che era stato modulazione, però non ho fatto caso che era lì. E tu stanno sempre mangiando a baracchino. Cappa, io mi sto svoltando a biscocca su quel polpa. Ma di nuovo mangiando te? No, guarda, mi sto bevendo un po' di frutta per tirare un po' sul morale, ragazza. C'è già un po' di scusi, questi qua c'è vitamina, proteine, perciò se vogliamo mangiare, quindi praticamente con questo mi dà l'appetito, tutto qua. Questo poverino, perché se no è zubbruccio. Non voglio di butta a fare, per carità, se non vi avvieta a te. Avanti, Luca. Comunque Antonio, ma non hai la ragazza in campagna? Io no, la campagna del campo è sì. Allora si può andare a prendere un po'? Basta andare, entri e fai quelle... proprio il ponticello, se mi dico, vai su e tu fai. Non c'è nessuno, capito Luca, è abbandonato. No, sei un cane da lupo! Il cane di lupo è te? Ma quello l'ha fatta mia, non l'ha fatta... No, io voglio un cane di lupo! Ho detto in due, cos'è detto Luca? Ho detto, dove rimane il rifornitore? Ma il rifornitore te l'ha, la campagna è tua, prima del rifornitore e dopo. Ai. No, la campagna non rimane, quando vai avanti di quel ponticello, non so perché mi dici, poi di giù, c'è un ponticello, c'è una campagna all'altra, c'è una pizza lungo, perché 20 metri e mezzo, non mi dico, c'è quello di campagna degli altri, dalla parte dove c'è la campagna, campagna mia, c'è anche il baracchino dove c'è la campagna, c'è una volta di come non vedo, c'è la campagna Franco all'inizio, io non so tanto dove è. Ma non rimane l'entrata, non ho capito ancora. Prima del primo rifornitore o dopo, secondo? Senza nuovo rifornitore, dopo c'è due mesi, come se vede la caravana di entrata. Ho capito, capito. E vabbè, tu non è niente, no, non è frutta. non c'è più sfruttamento, magari. Tu puoi un diritto, ci sono garanti di fronte a te. Fra, di oggi li vorremmo. Papà, che è il mio zio, ovviamente, quando non c'è lui, c'è che sono lui in presenza. Ma tu è Luca. Oh, Luca! Dimmi, magari lui. Come hai fatto la condizione? Non si può fare, non è il problema. Non farà. Può andare, anche domani sera, basta le tre magari. Andiamo e ti facciamo gli avanti. E che mi fa un bagno con un giro? Che è giù la tolta. Miglia, vai, sparami a capodanno. Sei già attento a fare il nostro avversario. Vediamo un pochino se c'è Gianni ancora. Gianni. Gianni si è addormentato. Natalino, non c'è più, Natalino. Tutti dormiti io. Vabbè, capito, state attenti a non fare il bersaglio, perché adesso pagano per sparare a capodanno, e quindi non si sa mai. Ma andiamo, vediamo, stiamo andando, non è problema. Barracocco, me. Guardate, lento, sono passati 5 minuti, neanche 3 minuti, fai 5 minuti. E ti devo barrare, sta sparata a fare grosso. Preco su lì, cucina e copiata cambio. È registrato, capito, ho sparato a fare grosso. Avanti, dai, Black, buonasera. Buonasera, qua è Daniele, direzione Portotorre 131. Prova radio, è possibile? Allora, qua mi sta arrivando, segnale 9-5, radio 5, avanti, Claudio. Sì, il segnale qua è leggermente più forte, 9-10, la radio 5 perfetta. Da dove state modulando? Io sono all'altezza dell'incrocio per Rusinco per Santa Maria. Io sono a Carbonati Alto, Luca è al monte. Avanti, Franco. Il rapporto del segnale per la vita l'ho copiato molto bene, sono relativo 59 più 10 di B qua alla mia stazione. Avanti con il suo nome nativo. Allora, qua è Daniele che modula. Non sono da molto, ho parlato per un po', dopo mi avevano rubato l'antenna, quindi ho dovuto bloccare. Adesso me l'ho ripiazzata e sperando che non se la portino via di nuovo. Va bene, Daniele, ho copiato. Come ti sta arrivando? Come sta la sorteggia di cambiarmi il rapporto di segnale? Guarda, io sono adesso all'altezza di Sant'Orso, ma arrivi a fondo scala nel baracchino. Sì, capo, va bene, ok. Riprendi Claudia, tu fai girare. Allora facciamo girare. Il microfono credo che stai a Antonello. Dimmi se sto trappando, Antonello, sto parlando piano. No, va benissimo, cosa che mi sei dato già questo? Non inquina, non vuole sbagliarne. Non so, è entrato anche stasera, abbiamo fatto delle prove. Daniele si chiama, però non so il nominativo. Hai un altro nominativo, Daniele? Sì, a volte esco come FDG. FDG. Più facile Daniele, comunque io sono Claudio Parriero. Buonasera, mi hai sentito, mi sei, siamo già collegati per sera, abbiamo fatto le prove. Stai andando benissimo, 59 più 20 qua, alla mia attenzione, nella radio è sempre 5 perfetta. Avanti Antonello, fai girare per Maria Luisa. Guarda, mi arriva sempre con noi per modulazione 5, comunque. Avanti, Maria Luisa. Cosa portate a far ridere i pulli? Ma portate me lo metto. Far ridere i pulli? Ma mi dice buon coraggio, una portata a cacciare la stessa, non ti vergogni. Vabbè, ma come se ne cacciata? Vediamo un po', Daniele. È importante. Niente, no, voglio sapere con le ascoltate a me, come ti trovi adesso? Daniele, ti ha chiesto vedere come l'ascoltavi a Luca, vai capa. Nel mio passaggio qualcuno si deve essere intromesso perché l'ha coperto, non mi è arrivato bene. Luca, la portata ti ha coperto, non sei riuscito a arrivare a quanto mi ha spiegato Daniele, è tutto lì. Sì, sì, ho copiato, dai. Beh, questo è un altro, Claudio. Una portata è Santiago 7, ragazzi. Io vivo tutta con la scala, di Santiago 7. Vergognati. Ma sai com'è, alla mia stazione i soli arrivano a quel livello lì, a 7. Ma tu ti fai arrivare via io. Cos'è, le campane dell'ultimo giro, Chi tardi arriva, la alluggia. Uè, Marco. Beh, ciao, buonasera a tutti. Un bicchiere di vino a tutti prima di andare a dormire. Vedi che la portata non c'è più. Allora mi chiedono anche al portantista. Va vento, ragazza, gliela avete al portantista per la stagione finale. Ciao Marco, come sul tutto, ottimo, ascolti, faccio la portante qua, Santiago 7. Sì, ti ascolto io, ma più ti ascolto il vero, io qua c'ho il monitor, no, non succede niente, vi svelo tutti quanti. Ho visto anche a Franco, ma il fattoletto già ho potuto lasciare a tavola, è già la mezz'ora finito di mangiare, ancora ho fatto un bucarone nel mano, sì. No, negativo, ciao Marco, comunque buonasera, è Santiago da una parte mia. No, lo sai cos'è? Il problema è questo qua, adesso mi sto bevendo un succo di frutta, perché stavo fumando una sigaretta e chiaramente ci avevo un po' la gola asciutta, tutto qua. Fra, qua non fugge niente, non fugge niente, bella radio anche, complimenti, si vede che il tempo è bello, bella, una bella polverattina, quella funziona bene, come quello di Claudio, quello di Claudio si sente anche meglio, allora anche le mie fanno così, quando lo pulisco poi mi sembra che si senta anche più argentina la voce. Va bene, passiamo alla torre, Tower, ci sei, mi senti? Attenzione Tower, sono su IS-45, chiedo permesso all'atterraggio. La torre ti dà il permesso di atterraggio, nessun problema. 59 più 20 qua, sulla pista numero 1. Ah, perfetto, dammi le condizioni del vento e dimmi se posso rullare tranquillamente lì sulla 1 oppure se mi devo spostare sulla 2. No, è meglio che rulli sulla 1 perché la 2 è tutta ghiacciata. Le condizioni del vento sono molto forti e qua il temporale è in arrivo. È tutta la sera che batte questa perturbazione riportante a tutto andare. Spero che si tronchi il collo e che ne cada la sedia, tipo Air One. Kappa, grazie Torre, grazie al permesso accordato, adesso abbassiamo il flap, così facciamo quello che c'è da fare. Benissimo, allora rulliamo sulla 1, chi non vuole pesce lo colga per Benino. Ma ditemi una cosa, prima di atterrare, ma il phone, l'avete passato lì a Gianni, quel phone che gli serviva, quel phone per riscaldare tutta la situazione antennifera? Ma Gianni c'era poco fa e poi non ha risposto più. Evidentemente ha paura dell'antenna, quindi è in quel ritmo. Avanti Luca. Ciao Gabba, vediamo un po' se ancora Daniele, c'è ancora? Sì, io ci sono ancora, però mi avrete ricopiato per voi. Grazie Daniele, arrivi bella a colori, bellissimo bene. Ti vedo benissimo Daniele, 57 con delle pomeriggio vanno estinti leggermente, ma non c'è problema. Allora, Gianni ha risolto i problemi antenniferi e speriamo che si faccia risentire, ma secondo me io sono passato da quelle parti e ho visto che c'era una danza di condominio, tipo Macumba, mi è sembrata, che la stanno pindacciando quelli l'antenna. Vabbè, comunque gli mandiamo una benedizione irradiata in maniera positiva, che è subito in questo momento, di debacco. A chi aspetta il microfono, torre, lancia tu qualcuno sulla pista, a proposito avvisa anche i pompieri che stiamo arrivando. Una lancia di condominio, giustetto mi divulga, è carità. Avanti, Antonello, ritrimi. Lei si può per forza a me una benedizione di questo palazzo che abita già in strada, non c'è nulla. Io ho fatto di tanto l'antenna per pochi anni fa e ti posso dire che se guasto nel terzo piano vuole essere buttato dal balcone perché ti fa impazzire quello. Capito, quello è capace di fare i piccoli. Fare il soprattutto, mettere i fiori, perché è metto scemo quello. Marco, va per la vita, stai facendo lo smitter. Tranquillo, tranquillo, è tutto sotto controllo. Io qua volo veramente. E la terra mi ha detto numero uno, io sto cercando la pista numero uno. Terra, ma c'erano anche le luci qua nel tetto quanto ce n'è, perché qua qualcuno stasera rimane senza antenna. Stavo volando troppo basso, i segnali sono troppo forti. Antonio, per piacere, sposta il saldatore, perché sennò qua mi bruci lo schermo. Stai attento, c'è sempre il saldatore a 120, mettilo un po' più basso, e l'ultimo intanto roba da bruciare non ce n'è. Tu? Oh, niente, 40 al matto ciò. Sentito che c'è questo dottore che ho a casa lì, cosa? Guai, scusa, mi c'è un'antenna. Non devo pompare un pochino così ventina per questa... delle luce. Lasciate fare il mestiere a chi lo sa fare, è importantissimo sa fare il suo lavoro, d'altronde è pagato per fare quello che sta facendo, non disturbate, lasciate fare il suo lavoro, ognuno faccia il suo, va bene, va. Torre, riprendi tu e metti tutto in ordine. Si non ferma, mi sono dimenticato, adesso bene, mi sono dimenticato di accendere le luci, adesso accendo le luci, così ti faccio atterrare lì. In quella zona, tu sei tranquillo, stai attento alle ali, non fare danno, lascia i pali, perché già l'altra volta quando è atterrato in fretta mi hai tracciato un po' di pali, paletti, li abbiamo messi in ordine da poco, quindi vai piano, adagio, atterra piano piano senza fare danno. Allora il microfono va per la seconda torre di controllo, che è Franco, avanti. Quindi accende bene le luci, Marco, piega le ali prima di atterrare e poi riprende il collo. Tutto lì, rapporto il segnale comunque, Marco, per te 920 qua è la mia stazione. Abbastanza ultima anche la modulazione, va bene. E lanciamo la microfonia a Maria Luisa, se c'è ancora, avanti Maria Luisa. Luisa sicuramente c'è con il caccia, lui è atterrato prima di tutti, ok. Allora detto questo rilanciamo la microfonia di nuovo a Luca, riprendi Luca. Però io devo fare i complimenti a Marco, ma fa il Napoli. C'è una radio spettacolare, proprio bella, forte. Ma quello che sto usando? Il tuo originale Luca, quello dell'FM340S, quello che c'è in dotazione, è il nero, Intec c'è scritto nel frontalino, non c'è niente di più, è inutile aggiungere altre cose, quando vanno bene le cose bisogna lasciare così, io sono di quelli che non tocca niente, guarda, non tocca niente con le mani, sono con la mazza e con il cartello. Comunque complimenti, la radio è veramente forte, forte veramente. Cavagava, vabbè, e io ogni tanto, io ando indietro, un barattino l'ho aperto, sto sacrificato, perché questo non lo so, io qua sono toccato il trimmer dello smitter e basta, tutto qua, non ho toccato altro, poi se è stato toccato, non lo so. Ciao Luca, evidentemente l'hanno pressionato il portantista, adesso si è passato per intero, meglio così, va bene, ma che ore sono? Le 10:30, alle 30 deve avere, adesso c'è il cambio di guardia però, alle 10:30 cambia e ne arriva un altro, ci abbiamo 5 minuti di autonomia. Grazie Luca, grazie, caffè pagato, anche corretto non c'è problema, pure due bustini di zucchero. Certo, grazie. Aspetta, vedo un po', Maria Luisa, rispondi, lo sappiamo che sei all'ascolto, dai, rispondi, tu. Io sono geloso comunque, perché la mia radio è la più bella di tutti, anzi i complimenti vanno a Marco con la Battimobile, e io niente. E ce l'hai la Battimobile tu, che non la usi mai con la radio. Già la tua tratta adesso mi sembra, no, non è pronta. Sì, sto preparando la tappa per mettere il PS40. PS40, ecco, bello, oramai sei talmente arrogante e prepotente che chiami un'azienda e ti fanno l'apparato su richiesta pure. Sì, già. E pensare che avevamo a Roberto, dove si è fatti sentire che è la BM più arrogante che c'era fino a qualche giorno fa, e cosa è successo? Fatti sentire Roberto, la tua. Roberto era poco fa che è andato via. No, ho sbagliato, Marco, TS44S. Della Zodiac questo, della Zodiac TS44S. Mi stanno preparando la staffa al fabbro perché si è rotta e allora sta preparando bene, poi te lo fate sentire con il tuo microfono, va molto bene. Luca l'abbia sentito mi sembra in macchina, vero Luca? Staffa già, sì. Va benissimo, ma adesso per piazzarvi l'antenna, bucarvi la capota della macchina, non ho detto così. È tutto bucato stamattina, so che poi è iniziato a piovere, quindi ho lasciato i lavori a domani che non piove. Comunque il foro è già fatto, l'antenna è già montata, tutto montato. Devo solo passare due casi di alimentazione e basta, perché non si arrivavano, quindi devo fare lo spettrone dalla radio fino all'alimentazione. E poi siamo nell'aria. Perché dalla radio? Col trapano domani ti rifaccio io 3 o 4 bei buchi nella cappotta, vedrai. Ma la 2001 tubo è montato qua. Eia, no, quella che mi ha comprato Marco, la PLC 800. Famiglia, grande avendo. Ma va bene, ma sempre non va la R5, però la pelle 800, poi quando si arriva la 1, quando si arriva la 1, non si era appeso la 1000, si era messo la 1000 lì. Cavagava, avanti Franco, riprendi tu il mal. Sì, adesso, me la piaccio io la stazione in macchina, voglio vedere se comporta dalla macchina. Dai Fra, arrogante però, bello arrogante, non così sottotono, bello arrogante, roba di amplificatori, la manetta, capito, roba pesante, Fra, vengo io domani col trapano, vedrai, mi bevo un whisky prima, e poi col trapano vedrai tutti i buchi che facciamo nella capota. Non li appaura. No, ma io davvero sono già pronto, sto facendo il basamento per mettere il microfono di lavoci, no? L'85, il lavoci, capito? Si parte col voce, va in azione questo microfono nuovo, sto facendo il basamento lì vicino al cruscotto, lui parte e la macchina si accelera la sorte. Ma che alla grande, così vanno fatti gli impianti. Adesso mi bevo, prima mi bevo di quei, come si chiama quella fa incendiare che ci hanno portato alla moto, cavaliere. Ah, lì al bar moto, la tequila. cosa tequila, l'altro giorno mi dice tequila, non è tequila quello, quello incendiario non è tequila, quello con le fiamme accese, mi dice sotto la camicia. Non me lo ricordo, l'aria mi ha detto l'altro giorno, via. Non lo ricordo, vabbè, comunque due di quelli ti bevi prima, così ti fai mega tremarella e mi fai la macchina tutta triste. Perché tu contrappano, non riesci a chiappare, mamma mia, contrappano, c'è l'ucciso, e due sono di gente correndo. Qualche gioco che ho fatto lì a queste escursioni, per carità. Siamo entrati in un bar a bere, poi è tornato questa cosa incendiata con la cannuccia. A prima titolo mi andava anche bene, no? Ho tirato primo sotto, stava bollendo, ma no! E poi con la cannuccia vado a prendere il bicchiere, ma bollumato la mano, via! Cos'era nel coso, la, praticamente, ponch, quello che si scolge il cuore che si scalda. Non era poche, no, era proprio una specie di superalcolico super che ti portano incendiato con le fiamme accese. Quando l'ha portato, quello gli ha sciolto la cannuccia, oppure infila la cannuccia in mezzo alle fiamme, in mezzo al fuoco e succhi un pochino, ma devi fare in fretta perché sennò ovviamente la temperatura del water si scioglie la cannuccia e la cosa si è sciolta. Ho capito, non me lo ricordo che tipo di cuore è, sono con il cuore che qui accendo, cioè non lo metto nel bicchiere, accendo e qui si danno la cannuccia in te. Fuoco di Russia, allora. No, lascia rivederti ancora, una cosa allucinante. È un tipo tequila, una cosa del genere, soffitto, no, è soffitto, una cosa del genere, comunque in un locale messicano, eravamo una riunione con Marco, siamo stati a bere, ma ti dico, guarda, altre due di quelle, e lì da quella via di Alghero vedevo la Ginara, bella, la Marinica di Giunta. Bella regretta, da tutti gli aerei volando impazziti c'erano, cercando campo a terrario, bel vettore di controllo, vettore di controllo, andando alle indicazioni sotterrate a tutti, un casotto, mamma mia, meno male che avevo la bussola, io piano piano abbiamo trovato la via di casa, con calma e con pazienza e con sangue freddo. Ci vedremo altro un modo, guarda se hai dormito la banchina qui. Per quello stavate cercando l'autista. Ah, la visione 6, e allora? Ma è stato tutto degli anni 6, ma è un poligotto dov'è? Sono fuggito. Io ho riacceso adesso perché stavo facendo cosa. E vi ho sentito. Tu sei lì, verrà qui. Poligotto, ragazzi, Stefano, dove sei? Se ti sei battuto un colpo. Due colpi, non è Stefano allora, questo è importantissimo. Vabbè, Franco, va, lascia la roba a mangiare, Franco, non vuoi dire niente. Basta, qua, sono a mal di stomaco adesso, non voglio più toccare niente. E sono anche stanco, oggi guarda, un'incazzatura nera, Marco, per carità. Un'incazzatura nera. Non dovevo lavorare stasera, invece mi è toccato andare a fare l'intervento, quindi ho anche tardi. Per carità, guarda. E questo e quest'altro, tutti. Tutto l'ultimo momento poi chiamano, capito? Se ne ricordo tutto l'ultimo momento. Tutta la mattina senza fare niente, l'officina, poi la sera, a far lavorare più di prima. Tutto urgente, per carità, guarda. Lavoraccio, ragazzi. Non è parlare. Ti capisco, fregate, non vai, la fine è staccata, adesso rilassati qua in radio, prendi una massa e comincia a tirare cose a destra in manca, almeno ti distendi i nervi un po'. Vabbè. No, stavo studiando alcune cose e poi l'ho mollato, chiaramente, perché mi fanno male anche gli occhi, capito? E capo. Ti capisco, poi nervoso, fa ancora di più salire la pressione, fiatta, mamma mia, non fiatare come fa Claudio perché sennò bisogna tapparsi il naso. Addirittura. Perché mi dici così che è morto? però quando di voi si è colpito mi sono anche arrivato perché sono anche in tagliare le fiamme. Purtroppo sono fatto così, diventa subito stravagante. Vabbè, adesso organizziamo subito dopo le feste, così ci rivediamo un attimino, ci facciamo un ciuffito, un trattolino, come si chiama? Cumagliere, lì, trick e track, su e giù, ma di saluto non mi butti. Questa volta mi porto l'autista, così vedo bene la strada, non si sa mai se sbagli in carreggiata come l'altra volta, due ruote in cunetta, e poi reggiare, poi altre due ruote in cunetta. Poi io vedo fuori strada adesso. Una pigna calata fa tirare. Allora, una pigna calata a cabo, sì sì. Poi vabbè, facciamo una cena della City Band, tutti quelli del Candelici, tutti insieme con il taglio, andiamo a mangiare da qualche parte e poi tutti sotti, via! Andiamo al ristorante Franca tutto Falcone. Ma il dentro del sito lo sai qual è? Non l'ho più trovato. No, non sono mai sul dito di sito io. No, io dai telefono gli accenti con entrare sul dito. Allora rifacciamo la registrazione, il sito nuovo. No, c'è ancora il sito, vai. Anche Stefano l'aveva trovato. È che il disco che c'era prima non c'era più, con le foto e tutti i file MP3, guarda, era una favola. Bisognava presentargli a Fellini quello che ha fatto. Grazie al CD, io avevo fatto il CD. Avevi tutto il sito, Natale. È a Londra. La verità, Natale, di la verità però. Tutto il sito con le immagini, con le MP3, anche di quando si è incazzato con 131, queste cose così. Ehi, l'avevo fatto più a cosa, già io, la coppia. E allora domani, guarda, se esco, c'ho già il CD in macchina, te ne do uno, o me lo dai e me lo masterizzo, o te lo do e me lo masterizzi, o me lo masterizzi e te lo do, o te lo do e me lo masterizzi e me lo dai, o me lo dai e te lo masterizzi e te lo do, capito? Devo trovarlo a vedere, ragazzi, perché non ve l'ho messo. Comunque, l'avevo lasciato anche a Gianni la coppia, la pizza. Un brezzo, vado a entrare, mi sembra un piccolo, vado a un brezzo. Oh, me lo copri e te lo dai, me lo do. Sì, basta che mi dici cosa dobbiamo fare. Certo. Però non mi dire che tu non l'hai trovato, non fare come fai tu, Natale. Tu quando passi fa finta di niente quando mi vedi. Come sarebbe a dire che faccio finta di niente? Qua non so, mi devi dire qua, io ti devo dire qualcosa e tu non me lo devi dire, io te lo devo dire, tu non marici, e allora se marici tu non te lo dico io e rimaniamo sempre così. E allora tu passi e mi vedi e fai finta di niente. Ma non so che fine ha fatto, ma questo l'ho offerto, dovrebbe esserci, se no la coppia dovrebbe averla Gianni, perché io la faccio io. Dagli un'occhiata perché me lo voglio copiare, se ce l'hai ne va, è troppo bello. Ho fatto male quando l'avevo beccato a non masterizzarmelo. Poi c'erano tutti questi MP3 di. No, avevo copiato, bugia, avevo copiato solamente il file MP3 e tra l'altro quando è avvenuta quella storia lì, io ero in ascolto, mi ricordo benissimo, ma si tratta della fine degli anni 70 forse, una cosa del genere. E però poi quando l'anno scorso un fulmine mandato dal nemico mi ha danneggiato, mi ha bruciato l'hard disk e ho perso tutto. Non avevo copia, era sull'hard disk dove l'avevo scaricato e niente. È rimasto così, pazienza. Perciò se lo becchi me lo voglio copiare. Vabbè dai, ho monopolizzato un po' adesso, ho fatto tre passaggi lunghi, se no poi Franco magari ci mette la nota. Vai Franco, tutto tuo e poi fai girare per Tawara, il Tawara. No, stavo facendo alcune cose. diretta qua al marzo. Sto adattando praticamente un microfono all'EPD qua che avevo. Ecco, quindi sto adattato. Ho visto che questo un tema. In luce l'ho provato e ho visto che spara abbastanza bene. Ho fatto un tiro d'acciaio. E se l'ho costruito, questo tiro d'acciaio non si crede. Si crede, là, o è roba di ombrello, oppure può essere roba di tergicristalli, oppure è roba di antenna, di macchina, Renault 5 del 1982. No, negativo, tutto negativo, tutto negativo. È un elettrodo, elettrodo per acciaio, praticamente lo tutto quanto scaravecchiato, tutta la roba che c'era sopra, con la polverina, l'ho sfucciato, e dico la verità, la misura giusta giusta pure, e va veramente bene. Fra, non me lo dovete dire, questa storia dell'elettrodo è stata una cosa che è rimasta per mesi e mesi in frequente, questo dell'elettrodo, accidenti, ci sarà Torre che si sarà buttato dalla torre adesso, Torre non ride con la storia dell'elettrodo, un elettrodo ricordato di ogni cosa praticamente, è stato da Twitter, capito, l'ho fatto da lì. Perché abbiamo degli elettrodi per acciaio noi, quindi l'ho, come l'ho pulito e ho ricavato uno stile praticamente tutto qua. Lo sai Marco che Tower l'ha provata quell'antenna insieme al chiarissimo socio Scorpio e andava a Viruccio, chiaro Franco, e visto, l'ho fatto vedere a me, mi aveva comprato una piattola di elettro di Marco. Perché prima di riuscire a farla ho consumato 50 elettrodi. Sì, sì, a proposito, anche se sì l'avevo fatta quell'antenna lì, a fondo c'era ancora, quella lì, un quarto d'ora VHF, che è su, buona, ormai è poveretta, è morto, pazienza comunque, lo ricordiamo sempre. Hai visto quell'articolo che c'è Nuova Sardegna? Sì, beh, così si mette sempre per ricordare il trigesimo, l'articolo si mette sempre. Ho intossicato un carissimo venditore del internazionale, poi, non del Nord Sardegna, un venditore con deposito intossicato da un'erba pericolosa, io penso che sia lui. Sì, era lui, è esalazione del fieno, della paglia, di tutte le erbacce che conservava nel silo, e così, pazienza, è una brava persona, peccato, ci mancherà, lo ricorderemo sempre nelle nostre preghiere qui con nella messa di Don Erz. Comunque, Ofra, adesso tu mi fai provare quella che hai fatto tu l'antenna. Poi ti faccio provare quella che ho fatto io, ci ho messo più di 2 anni per riuscire a farla, consumato un pacco di elettrodi, ma ti ho fatto una cosa della vita, però purtroppo io sono duro di mente e quindi ci ho messo tanto per farla con l'antenna, però io ce l'ho ancora, funziona benissimo, ogni tanto la uso, la metto lì, la bagettina, la macchina, andava molto bene. Quindi adesso vediamo il tuo esperimento, se è valido, tra l'altro compro io un pacco di elettrodi. Fino a quando non lo fai bene, comprerò sempre un pacco di elettrodi in acciaio inossidabile, mi costa, però alla fine Marco aveva un amico che faceva mandare a questo amico al continente perché era stanco di andare veloce a comprare elettrodi, e alla fine ha detto, ma quindi che cosa deve saldare? Con tutti questi elettrodi. No, negativo. Poi ti posso garantire che il primo letto l'avevo messo, l'ho piazzato, a parte che il PL è diverso del tuo. No, cominciare, il PL è questo così, Tower è Tower. No, questo l'ho fatto io l'ho comprato proprio il PL è adatto per fare questi lavori qua, capito? Tu quando lo vedi mi dici se va bene, era proprio, io l'ho già provata, questa antenna qua, e ti posso garantire che sia abbastanza bene, e va veramente bene. Sì, ne ho fatto una io, altro che elettrodo, capito? No, noi ne apparecchiamo un po' di elettro, dobbiamo cominciare con le motozappe, i gruppi elettrogeni, tutti quelli svegli, tu sei megalomane, a te ti piace fare antenne 15 metri, 20 metri, a noi ti piace fare gli antennini, Capito? Basta che se non decide che fare altri mini. Adesso dobbiamo costruire un'antenna cerchia portante per Luca. E vedrai che ci riusciamo, eh? Vero Luca? Luca? Quello che abbiamo visto sotto deve essere salito, gli deve aver staccato anche la corrente. Quella era l'ultima mossa mia, quando fanno così è stacco matto. Quando salgono ti tolgono anche la corrente e si è fregato. Quello che aveva le condizioni dell'elettricista. No, ma non era qua Luca, dove è andato? Luca era qua, ma lo sai com'è, quando ti tolgono l'energia, no, e ti spegni, non c'è niente da fare. È così, Beh, io sono arrivato a casa, sono arrivato a casa, ha messo infinito il refrigerino perché quando accendo la casa sono scintille. Io adesso mi metto in baracchino, così se mi faccio il baracchino, non ci sentiamo più. No, sono preoccupato per Gianni, che ti chiede. Quello se parte fa una tragedia, Gianni. Ah Gianni, io non è andato a controllare quelli di una salarina del condominio che stavano ballando, facendo la macumba. Tutti ballando stavano, io mi chiedo il binocolo qua. È stato giù a sottopiano dove c'era Sarina e condominio, tutti in festa erano con le collanine, con gli occicini che stavano, con le pagliette che stavano ballando, ma dimmi tu, se è possibile nel 2005, nonché quasi nel 2006, che possono fare queste cose, roba da matti, non ci avrei mai creduto, poi a mettergli le bamboline o gli spillini nel cavo dell'antenna. Io è una vergogna, vediamo se è ritornato Luca, non mi lascia con questo pensiero, questo ragazzo che anche lui gli hanno tagliato la luce, Luca! Questi condomini sono sempre arraiolati, se c'è da mettere quel bello che nei condomini ci sono le riunioni, non dite che ci riuscirò mai che ci devi dire qualcosa, bisogna sempre bollinare. Ma com'è? Come non ti dicono niente? Ah, com'è che non posso dire niente? Allora, io li dico con Alfredo. Alfredo è il mio amministratore di condominio. Ma quando mi telefono lì, mi dicono quasi, mi dicono, no, aspetti, guarda, devo parlare prima con loro, oppure faccio sapere. Fate venire avanti Antonello, grazie, no, con questo lettore acceso incomincia a punire il fuoco da tutte le basi. Antonello, vieni pure avanti. Meno male Claudio, ho votato a casa, io cambio sempre la centralina della tacca di luce, ecco. Voi si fai fatta. Ma siete un incendiato l'altro giorno, ho dato un colpo di amplificatore e si è fermato il cancello a metà. Devo essere collegato, mi ero sbagliato, anziché collegarmi con l'ascensore mi sono collegato al cancello elettrico. E Dio, ma... L'altro giorno è venuto a riscuotere il condominio, Marco, l'amministratore, come ha fatto la porta. Oh, buongiorno, siamo Alfredo. No, sono... Fernando, ma scusa, Fernando, porca mi giri. Dell'abitudine anche collegati alla cancella allora, ma non fare come hai fatto veramente l'altra sera che sono passato, c'era la gente, non riusciva niente, non riusciva, si apriva e si chiudeva, ma non aveva parlato e tu andava e tornava al tuo cancello, bubu. L'hai visto, ogni volta fa così, non posso attaccare l'amplificatore, infatti c'era, ma ha telefonato, era pure, non riusciva neanche a entrare, non riusciva, bubu. A tre parti, ah sì, alla radio, e sì, perché stacca tutto, il cancello non apre, siamo tutti fuori. Per forza, sono attaccato all'amplificatore, ovviamente è fatto bene, l'assorbimento, accidenti, ma vedete questi nuovi contattori digitali non sopportano niente, come gli dai appena un phone in più o a parte il frigorifero o lo scaldabagno, saltano subito. Io ho sbagliato anche l'altra volta con l'ascensore, ho preso il cavo, mi sono trovato a posto notizia l'ascensore, sai, come se c'era una portante che l'ascensore partiva, non c'era mai nessuno dentro. Alla fine l'ho chiamato, dice, ma scusa, non c'è per il sole, come che parte da solo? Cosa mi si dice io? Scusa, hai fatto bene. È tutto il vantaggio, per carità. Sì. Qualcosa che succede, purtroppo. Non si può fare, questo paliero è fatto così. Luca, ma la corrente siamo attaccati. Tu quello era importante, è andato a casa tua e l'hai parato. Mai. Avete finito da fare. Pazienza, pazienza. E tra l'altro è rimasto di nuovo. Vuoi tirare, io ti è andato, l'ho detto scusa, ma a me stai cercando. Con la pentola in mano, è arrivato con la pentola in mano. Ma l'ha parato perché si era bruciata l'avvento. Dice che è male, pur di non voler finire a bruciare, ho preferito venire e finire direttamente l'avvologa. Terminator, va bene, dai, io vi saluto, sono già arrivato a Domopat. Ci sentiamo da dopo, va. Rientro, scenario cenato, senza un caffè magari, e poi vediamo cosa succede. Ciao, dai, fatti di bravi. Torre, mi raccomando, prima di spegnere, ricordati di far atterrare a tutti, sennò qua ti rimane qualcuno in aria ancora volando. Ma è già qua, pensiamo a te, no, con Luca, ma è tutto. Allora no. Continua a fare sempre canotto, guarda che ritmo di tutti la tacca. Cos'è? Ti pungevano? Ah, nella cruce ti pungevano a lungo andare. Allora, oggi ho ricevuto una telefonata e mi hanno detto, ah, va così, te li hai mangiati il ricino, i ricci? Io, e come sono i ricci? E i ricci ti hai mangiato? No, i ricci. E poi, no, assolutamente, a me l'ho piaciuto. Giusto pensate, sto già, ma tu manco il camera io sa, dici? Guarda, quello è col canotto di Marco, Scorpio, che ogni volta mi sente, mi sento di merito di attacca. Meno male non ti ha tirato una legnata pure, e già te la meritavi, dai, ma leggera però, era tu beffo. Ma ci sono gli altri poco fatto tu, perché cioè, comunque cerca di organizzare, adesso c'è passare domani, il primo dell'anno, prossima settimana, da lunedì in poi, cerca di... Ci vediamo, non ti telefono io e me l'ho caricato. Vabbè, ma tu sei durato tutto l'anno, sono sicuro, adesso ti vedrai tutto l'anno, non è così. Già ti butti così poco a telefonare, tutto l'anno adesso dura quei 5 euro. Ti conosco Marcellina, ti conosco, ma sono preoccupato di Gianni, non si è fatto sentire. Boh, ma appena è andata in caputo, no? Io stavo a casa in cimitore, sono intervenuto i carabinieri ieri. Perché ho detto dopo, ci sentiamo dopo, dopo cena, c'era il rosso. Forse quello della macumba, già, maledetti, già, l'hanno pinnacciato forte il condominio. Vabbè, speriamo che si faccia sentire, anche perché più usa, più scalda, più evapora l'acqua. È probabile che si rimetta in sesso. Perché si va basso stasera, ha perso parecchi punti. Ho avuto la faccia perché mi di Magliano, è rosso, non lo so io. Sono andati in rosso, a casa sua, è rosso. Sì, beh, sono andati, stavano ballando la macumba. Mamma mia, quello è il condominio, per carità. Bobo, vabbè, vado là. Ciao, a dopo, Boh, qua organizza tu la situazione qua, tieni tutto sotto controllo come si conviene. A dopo, ciao signori, buona serata. Marco Scorpion, QRT da questo momento. Ciao Marco, ciao. Ci aggiorniamo presto, Franco, a te la microfonia, poi davanti a Luca vediamo se rientra. E riprendo io, non è passato il 144. Ciao Marco, mi raccomando non ti caricare troppo di correttore sbocciato, perché se no poi guardo in trattata e finirà un pallino da solo. Va Saltoni Marco, Saltoni Natalino, Saltoni Claudio, Saltoni anche a Antonello e la componente della ruota. Per me QRC causa 144. Grazie, ascolta alle bruscelline. Ciao ciao. No, sabato, ma che sei polsetta, tu sei 44, tu sei tutto sì, siamo a fare quel coppio, sì, siamo da voi, sì, sì, sì, sì, io vi controllo veloce, ciao, ciao. Mi raccomando, stai attento alla corrente elettrostatica, Marco, se no ti sentono le lampadine anche al buio a te. Ciao, ciao, ancora, buono. Ciao, ciao, già c'è sempre la mano al posto giusto, ciao. Ciao Marco. Ciao Marco lì, già ci sentiamo domani, dai. Già ti telefono per farti da lui, tanto me l'ho caricato a 5 euro. Devo fare un euro a telefonata, eh. Un euro a te, un euro a Franco, un euro a Salino, un euro a Antonello, un euro a tutti, eh. Io più di 5 euro non attendo, quindi datemi una regolata, a lui e basta, eh. Non mi fate domande perché altrimenti poi il rischio si apre e mi spungo le dita. Ciao, videochiamami, che ti ricarico. Ciao, appena ti devo mettere il salvatore acceso, ciao. Comunque io, è quello un problema, adesso mattina vado a casa di mamma, te la Claudio al bar, capito, la sua che ti fa le palle. E quando vuoi. Ciao Marco. Marco, approfitta che non ti ha Claudio Fraga, sono il signor Vaglio. Allora sì, ti si sta il terreno alla mandibola e le assusti. Ah, perché altrimenti, come vanno gli altri in fondo. Ho appuntamento d'azione, ero appena il caffè con Alfredo. E che allora è il cagnolcino. Ehi, la mia già si è trovato, ho al Marini 2, ma è toccato, domani mattina c'è un carico per te. Hai visto, io ti dico che mi sarei a vecchi. Quello è, c'è l'aria bevissata e tutto il tono, non gli fa niente, io sono vaccinato. Ciao, ciao, Alepo, ciao, non andate a dormire, rimanete sempre qui a Lucia. Ciao, Marco. Siamo qua, ciao, fra. Buonanotte, alla prossima, stiamo bene, ci sentiamo domani, anche per te un euro lo spendo domani perché altrimenti non mi rimane con soldi per Alfredo, un euro a tutti, io devo fare così, se no è un casino. Vediamo un po' se Luca è rientrato, se abbiamo attaccato la corrente, cosa è successo, boh Luca. No, ma è andato al telefono, non si dice più. Ma domani se camminò farei bene, se vuole venire, vende bene con noi, facciamo un chilo di aranci per il condominio di Gianni. È vero, mia figlia lì si era passata a dei condomini. Ora presto è scherzo, però quando uno ha questi problemi così è un casino davvero. È un casino davvero, perché non metti i piedi, capito? Quando c'è il condominio contro è un manicomio totale, non c'è niente da fare, vabbè. Comunque, si vedrà. Ok, va bene. Mi sei rimasto da qua, sono i tre, Luca non li prende più. Ha ricevuto questa telefonata, l'hanno demoralizzato e non lo riprende più. Oh, gli è mancata la corrente. Boh, non lo so, io ho avuto problemi con il condominio, dove abitavo una volta, tu lo sai, tutti i giorni, a parte il condominio c'era un furgone sotto il caso. Dovevo dare anche la colazione a quello. Quelli facevano colazione, anche merenda. A conto tuo, tutti i giorni erano lì. Quindi è tutto per quello. Quando invece non ho fatto più la concessione, mi sono più venuti. Non si è capita che ero così. Non si è capita così. Infatti quello che stavamo parlando stasera, Luca, è quello. Quando si è in regola, non si regola. Quando non si è in regola, vengono a romperti le scatole. Ma magari ti che ne guidiamo tutto, per carità. Vabbè, dai, niente. Ma chissà che ci diamo una calmata, piano piano, io spero che la mamma quindi ti senta le portanti e che ti facciano continuare a farti le chiacchiere, a ridere, a scherzare. Poi, se c'è qualcuno al contrario, te lo dica adesso e poi te lo colga. Ma ora qua poco fa, adesso stiamo guardando un film, semmai sentivamo più tardi, ma poi non è entrato. Un po' la gola. Sì, ma Aldo, perché non posso farti tutto, ma se non ci metti di fermare un cazzo. Ma quello non vuole un po' di soldi. cosa, che c'entra ne vuole? Chi vuole ne vuole, non c'entra. Secondo te il giubbotto di euro quanto vale, vale più di 200 euro? Credo. Tanto ci lo usa, non ne stiamo usando più nessuno con la roba. Mi serve. No, io non lo sto usando, però lo uso qui. Così mi buttano le cazzo a fianchi, mi buttano. Ma quanti vatti c'è di eccitazione? 10 watt. Se il conduttore è proprio da età quella. Aspetta, perché se lo usavo un 15, io va comunque. Però, niente per andare bene. Vabbè. Col baracchino andrà bene quello. Col baracchino 10 watt. Gappa gappa. Ma no, io non ho di quelle di portarti, ne ho solo uno. Un TH28 che uso per fare attività amatoriale, vedi, quando sono in giro, così, ma è un monobanda, basta, niente portatile intanto, non mi posso niente, no, non mi servono, ma se costa una barca di soldi per i ricevitori, portatile e poi erogati, ma niente, questo ricevitore io ho fatto a casa, ricevo tutto da lì. Le varie radio, accese, e buttiamo. Sì, ho capito. Sì, quello non è che mi ha fatto guardare, dico la giusta. Se lo vedo. Io sono il marino. Il marino è basta, non ci vado. Come avere andare con la parte lì, quindi volevo qualcosa di... Ma quello là. Vabbè, si vede, se c'è qualche ricevitore, si avviso. Io no, non ho, se ho trasferato. Sono trasferato, ma non mi uso io di ricevitori portati. Non mi sono mai... Ce l'ho preso uno una volta, là. Ma no, non servono granché, ci vogliono ricevitori grossi per ricevere bene tutto. Ho visto ma Luca, ma non c'è più questo Luca, si è attaccato allo telefono. E magari è andato a soluzione. No, è sua abitudine andare via senza salutare. Ha detto dal telefono, ho ricevuto qualche telefonata da qualcuno, è uscito. Non so cosa è successo. Buonanotte. Non lo vedo, vabbè. Chi è? Il Boia. Ciao, adesso, vabbè. Ancora i citati. Allora, c'è Claudio. Ah, ma c'è chi torna, questo ciao. Vabbè. Stai combinando. Nulla, eravamo qua, c'era anche Marco. È andato in corretti dalla macchina, ma riprenderà adesso a casa. Ha preso il caffè, lui senza caffè non dorme, ordine servizio, poi niente, Mattarino, Antonetta, c'era anche Luca, è sparito, non so dove sia andato. Io sono qua che sto andando a San Sosso e poi di nuovo ridiretto a Sassari. Vabbè, che si sente così un po' pazzo, la verità. Passo perché proprio sto usando al normale, sto usando e sto provvedendo alle connessioni degli altri microfoni. Il baracchino lo hai? No, il baracchino è sempre lo stesso, l'Intec non so cos'è, poi il piccolino. Boh, quanto mai c'è tutto quello in queste connessioni? Mi sembra che sia diventato a me quando era venuto me scopo. E ne ho adesso a me. Ho ricatto tutto, se ne vai 3 mesi per avere niente. Ma sono questa anche a te mi ha detto la cosa. Alla fine entriamo con la testa omologata, piccolino. E parlavo lo stesso. No, ma quanto sta a saltarmi il capo domani, poi ritorno come era. Ma si è detto così, quello che ho chiesto, però il punto sarebbe da pomposo, infatti lì ho parlato al fumo non visto. Segnale già ne ho, grazie a Dio, no? Sì, segnale c'è, ma non c'è la radio. Basta, è questa, basta. Basta sì, in confronto a come ti sentivo una volta. Vero, eccola. Basta, Dio mio. È abbastanza comprensibile, solo che non è quella che praticamente sentivamo sempre, ma comunque abbastanza buona. Mi sento malissimo qua, Sant'Otto, ecco. A me, ma male di radio. Ma male di radio o male di segnale? No, adesso sei perfetto. Non può fare la forza perché parlate in due. Forse perché abbiamo parlato in due, ma altrimenti già mi senti bene. Ma no, aspetta, ci stavi trascinando qualcosa sotto. Senti, per me c'era qualcuno sotto. Se non abbiamo parlato assieme con Antonello. Tu chiediglielo. Si sembra strano che abbiamo parlato assieme. Siamo fischiati. Guarda, mi sembra strano che abbiamo parlato assieme. Troppo di microfono a cuscia, ragazzi. Quando sei nel mare, male. Non fuscia più questa cosa. Ah, ma dai, la goccia di legno. Ho fatto la goccia di legno, l'ho detto. Claudio, lascia il reddito qua. Ah, lascia il metallo, quanto me. Per quello che fischia. Lì è. Nasca lì. Oh, via. Ah, che tu mi sta facendo rodi, oh, via. E sempre tu caldo della bovina, sono con tutto per il vato, beh. Ma me la punta la punta del ritorno. Ma le fai da lui ancora. Guarda, senti, una volta ti sento su cucù del dubbio, non me l'hai mai detto. E già te l'ho detto pure se non volevo un pezzo di quello che avevo in mano. Sì, ma lo che mi fa il fenetto di lui, ormai non dici più. Adesso c'è manca la mano. Già te. Non ti sento che ha la carizia. Claudio. Oh, tutti i giorni palestra deve farli fare a quella cosa. Magari gli sussisto per mandare da me stamane a vedere. Così si rimetta. Torno subito. E anni fa vedo dirsi. Non ti piace internet, se non spacciati. Finito. Registrato breve. Come se mi collega in internet, roba, c'è il ventro bio alla radio, faccia l'idea. Avanti, Brett. Stai modulando la porta torre, c'è zona a porta. 4-6, Santiago 5, radio basso. Più che bene. Avanti Antonello. Qua non mi consento, già vedo. La prova che tu già avessi 3 minuti 8 o 3 mezzo. Io arrivo, basso, basso, basso. Natali, dai, sentito in macchina dal porto lì a Portotore. Guarda che io è come che sia in macchina adesso. Quindi non ho fatto sentirlo la porta. Ah, è vero, una salina in macchina non si sente, Roberto. Zero, proprio zero, non lo sento totale, totale, totale. Guarda, sei andato male stasera, ti accoppia solo io. E lui mi sente a me. Ma lo senti a Roberto? Cucù. Porto solo gente. Lo senti a Roberto, quelli che stanno facendo. parlando con me, dice. Ho capito. Qualcuno qui? Vediamo allora chi sente. Roberto, vai. Allora, non lo so se mi sta sentendo l'amico di Porta Torre. Però io non lo sento, lo senti adesso poco. Lo senti a Roberto? Negativo, Antonello, vai. 1, 2, 3, a fondo la nave. Antonello, lo senti? Positivo, allora quando ti sento. Natalino, vediamo se ti accoppia. Ah, mi sento a me, sono un'antenna della macchina, cosa? Mi sembra tanto, sentivo. Lo senti Natalino? Ah, sì, lo so di nulla, ho capito. Io ti sento benissimo, Flora. Segnale 7, radio 5. Un po' bassina, ma comunque abbastanza comprensibile. Tu mi senti bene? Poco più di metà nel baracchino. Bisogna avere... Non vedo questa metà, perché... Se è 9 più 20, mi dovete ascoltare la metà. Vabbè, poi ti dirai quando ti avvicini come la situazione. Se dura ancora che mi sto facendo i rossi comunque. Oh, io sto sentendo qua. Claudio. Sì, vabbè, ho capito. Stai sentendo? Ehi, ok, 9.45. Allora, sei tu 9.30. Ok, sentiamo, buonanotte a tutti, sentiamo domani per gli auguri. Ciao, vabbè, io sono Vigilio. Ciao, vabbè, alle prossime. Ciao, vabbè, ciao, alle prossime. Ho capito, dove ti stai fermando? Al Galeone? Vito, ti vedo io da qua. Sono a Cassari, ma ti vedo, c'ho il monitor, c'ho il GPS qua che vede tutto, Porto Torre, si sta trasmettendo, dove sei, dove non sei. Io vedo una macchina che si sta fermando al Galeone, anzi, mettiti bene perché ci sono un sacco di macchine in mezzo alle balle. Parcheggiato lì con la prua verso il mare. Ah, Cascari sono io, ti vedo dal computer. Non hai capito? Io ti vedo dal computer. Hai capito? Io ti vedo dal computer. Ti sei fermato dal Galeone e hai parcheggiato lì su quella piattuola che c'è, dove ci sono le ringhiere, col muso verso la Ginara. Ma scusa, in macchina non ci sono i cosi, come si chiamano quelli che mettono in macchina, che parlano, quelli affari lì. Io ce l'ho a casa, e siccome via satellite, io adesso mi sono collegato sul Porto Torre, se tu mi hai detto dove stai camminando, lo scudo lungo, allora io ho messo sullo scudo lungo e ho visto a te che ti sei fermato, hai girato, ti sei fermato al Galeone. Io ti credo tu. Come si chiama quella cosa che mettono in macchina? Questo si chiama GPS, anche quello della macchina. Il navigatore continentale si chiama. Sono pure io lì. No, se finalmente si è arrivato, non eravamo preoccupati, per chiamato delle voci, il GPS io ho, capito? Tu invece c'è il navigatore satellitare, hai visto che ha azzeccato? Io tu mi hai detto, sono un produttore di macchina, io ho detto, perché ti stai fermando al Galeone? E tu mi hai detto, sì, mi sto fermando al Galeone. Ecco, questo parcheggia bene, che sei in mezzo strada. Allora, hai messo la freccia e ti sei parcheggiato. Vedi, che culo, vedi. Avanti, Luca. Al telefono, aspetta, stiamo di Stubba. Ma chi? O che stai parlando? Con uno di Porto Torre, cioè, che mi ha detto che era in macchina al studio lungo. Allora io ho acceso il mio GPS qua al computer via satellite e ho azzeccato dove è fermo, cosa sta facendo, tutto. Però stai guardando. No, qua non lo sento, boh. Negativo. Fatti tu che stai vedendo il Google RM. No, qua non arriva proprio. Hai visto il progresso. Cazzo, tu hai ancora il telefono. Sei andato il telefono a Londra e Svedesi e mezzanotte, ma qui c'è ancora il telefono. Ehi, al telefono. Come una ricca, carissima ricca. Ma mi sente lui a me? Sicuramente sì a te. Lo senti a Luca? Vabbè, io sono un po' più aperto comunque, però se lo senti va bene, perché lui non ti accoppia. Io purtroppo, cavolo, non ho QRM, li sento, da Porto Torres, massimo li sento, però è costante un problema di gestione, perché da Porto Torres, sia la stazione fissa che in macchina, andavano bene, io me lo ricordo, sono fatto un'altra antenna, è l'antenna che non serve, devo che li sono da gabbo. E invece questo non sarà delle migliori, ma è anche basta, capito? Per me quell'antenna piazzata bene, funziona benissimo. Non ti conviene gamballa, avete bene altre le parti, attenzione solo che è bassa. Io volevo mettere un bel palo, drizzata, tirata su 3-4 metri e ti aspetta forte con l'antenna, avrei lì. Grazie, vediamo, mi fate quella lavoretto lì. Vediamo, che ti è rimasta, buon pollo, lui ci sia ancora, Franco, boh. Sai cosa mangiare? Voglio dormire. Poi, se Natalino, io sono Natalino e Claudio. Sto mangiando, Franco, d'ora! Cazzo, come è il taglio di mare al cranio? Sì, ci va a essere su, Franco, Cazzo, mi mangio, madonna mia! Questi mari non l'hanno accubisti! Ma lui tu, fala, io! Un paio di barovio! Ma mi ha applicato la semplice di minoreggi! Aiuto lui, no, le voglio! Aiuto mi un barovio! Aiuto! Sono rimasto da pura birra! Cazzo, un poco, Franco, è un posto! Quanto siamo assieme questo quando finite di mangiare come sta tutti già tutti i team e quello e quell'altro cazzo sta sempre masticando ma comunque non è grasso, è robusto ma brucia un bel durante il giorno certo sta di entrare a me le torrenti e basta via ecco la schiena ragazzi. Ma ci arriviamo a Luisa, buonasera, vedi gli occhiolini, io si muove come sta mangiando gli occhiolini, se tu mi piace fare di mangia. E lo stesso lo facciamo assieme, ci divoriamo tutto, adesso una mattina faccio a prenderlo, abbiamo un paio di cose da fare, e se no mi ha rovinato il fine anno a quel lavoro, che se ne va a fare presto, andare a fare un giro, a controllare che tutto è a posto, ma domani un paio d'ore me ne dorro. Manco ballate in camera, me ne basta. E che domani, vabbè tu fai un lavoro un po' strano, Dio. È un lavoro che purtroppo bisogna mettere un controllo. E vabbè, ma scusa, tu non dovete andare in ferie. Fa parte meglio lui, ma io fa parte, non ho fatto bene il calcolo e mi tocca rientrare domani. capito. Meglio fa parte. Vabbè. Va bene, tanto per fare. Comunque niente, la siamo presi da, non la bevare. Siamo bagli. Si è arrivato la aiuto. Non so che non lo piccare, no? Se la bevi tutto un casino. Andava, dai, dai. Riprendi il calanto, lì lui. Lui mi mette in quattro. E allora ruba la macchina, andiamo. Se lo metto, che problema, come si andare? Io voglio che andare a mangiare a attento, dimmi. Se scendere, si accumula. Ma dati, faccio di vedere tutto, non è dove fare avanti, ve li fate. Ma lei vuol dire che le cambia mobili in campagna a due, no? Che cosa ha detto? Mi fate un piatto di buco dove... Dopo la muratura che c'è, c'è un buco, dove la vedete arrivare qua, lasciate di graffiare, poi faccio di silenzio. Perché mi ha fatto una trappola? Io già a caso, la temo la guria con la peperone. Ah, ho capito. A Claudio, lui mi ha fatto buona la guria del peperone. E il caso si sbaglia, no? C'è quello di chiedere, Giacomo. Ma lo sento, allora, quando ti stanno via del chiedo, che io rientravo da poco sotto, c'era la volo alle 4:30. La prima tappa era lì. E verranno tutti, c'ero io, Cucciolo, Blu, cosa, non si chiama quell'altro di Rossi? Tutti c'era. Ah, Nani c'era. Era un po' di gente, trovavamo tutti lì. Abbiamo avuto una... Ma trovato, avevamo fatto lo stesso a un collega di lavoro, e mi erano mandati due pezzoncini, quelli rossi. E stavano siamo mangiati i babbicchi da birra. Pulire la roba piccante. Io ho mangiato la guria con peperone, mi è riuscito Antonello. È un solo buona, perché il cammino che si sono in acqua. Che dico che questo picchio è dovuta, mi aveva fatto il sorteggio per sapere se è passato. E qui ho fatto un tutto di legno, e poi con quelle, diciamo, con le pedane, fatto salvare in bici, si mi ha incastrato. E questo qui bisogna andare con la foglia. Io una volta tra, sono stato, no? E c'era lui, poi c'era Trappello, poi c'era Giovanna, c'era Mario Manser. Siccome lui in bagno lì, non era... E io mi stavo scoppiettando, ed ero, diciamo, a diarrea, tra parentesi, no? Dico, beh, adesso me ne vado, però non ce la facevo più, proprio zero. E io avevo 5 metri, mi manco. Stavo cercando un posto dove andare, c'era una casa abbandonata, non ho fatto in tempo, arrivavo alla casa abbandonata e mi dicevo, quanto che stai abbandonando? Sì, non una volta che si stessa a noi. Quello non perdona, quando c'è quella scarica, cazzo occorre a pettagli le mutande. Beh, sono salito, l'aveva portato a torre, si trovo così prima. L'aveva portato a torre, si è andata in piedi. Ma che non volevo dire che mi hai impugnato? Lo so, lo so, è brutta quella maledizione, chi sono salvita. Chi sta di scoppietta la prima volta e se non ti bolli ti sei fuggito, te la fai addosso perché ti crepa di brutto. E Andrea, Andrea, quello di Russi no era Andrea o Antonio. Quando finiva a tenere il sito c'era un vaso e tu, poi veniva Alessandra con il giorno, gli svegliamo con il giallo, dal vino, poi cose che non mi cucciò, se ne dico da poco addirittura. Poi arrivava, andiamo a ricordo, anche il fino, Giannina, poi Carlo per cercare che era il cognato, eccetera, eccetera. Ma c'era un nuovo figlio, un figlio di tutti, poi guadagniamo più Carlo che noi, in un mese, anzi non un mese, una settimana. Ma se non è che non mi va a cercare Andrea, perché se no, ma se quando andava in su. Anche a me come ho buttato a figliolare la faccia io una volta, stavo bene con lui, ho pensato, mi ha fatto una battuta storia, gli ho detto il giornale, questo mi stavo a bene, ho stato a bocca, cazzo, ho fatto un giornale, ho fatto una settimana, tu sei un marco, mi ha detto, tu sei un marco. Ma, questa è una vita brutta, allora c'era Andrea, avevo cassegato la lì. Non è un sanitario di Monea Bosnia. Non è una forza di 10 minuti. Vabbè, in questa macchina, lui. Che aveva un amplificatore sotto il sedile, era una cosa allucinante. Era mano avanti il sedile. Ma come partito dal paese, io parlando con Antonello, ero sembrato duende, Giardino, Bimbo, un bar. Io ho detto due o tre volte, non ha capito. Allora tre volte non ha capito. Una lì pongo, prendo la macchina a fare il garretteggio. C'era il bancone dall'altra parte, mi ricordo, no, Antonello, non ho fatto nulla. E mi ha rombato la bancona per vedere la birra. Ha detto tutto, una frase italiana, che mai faccio il vetro. Ha detto, non fate buona morale, non guardo, vieni fuori. Se lo voglio portare, vieni fuori. Abbiamo Andrea, tutto lì, non ha pegliato. E poi siamo diventati un bel amico. Ma sempre sta lavorando la cimenteria. Sempre lì, da quando si è sposato, non si è più visto. È sempre la situazione. Ma che è? Ma te lo farà uno lì, Antonello? Sì, io con Stanchio, io a Puglia. Andiamo, è un bel tocco, eh. Sì, è un bel tocco, ma non lo vedi che tu vai travagante. E come ti vedo che travagante vedo? Avevi chiesto tanto un po', Sì. La moglie, che me la stacchiamo, la moglie, era di Angelo Vestino. Sì. Anche mai la faremo, sì. Per poco mi compromesso con una donna che... Se ricordi, a Bacca c'è della fede, mi sei curioso, che hai dovuto mangiare, non avevo dormito in cazzo da notte, né io, né tu, né Gallina, né Angelo, e risate, non mi attivo le nove. Ma tu mi hai tirato domani mattina alle 9, vieni, vieni, che te lo faccio vedere, se tu vieni, adesso vengo via ripeto, ti posso dimenticare che femmine, ragazzi. E io non sapevo che era la moglie di Angelo. Ti faccio verificare che c'era la mamma mia letto di tutti i colori, di tutti i rigurori, da Guglione, da Rosso, da tutti i rigurori me ne ha visto, mi ha fatto a pezzi. E poi, no, è mattina, te lo dico, però. Che vengo in via Ricetta, alle 9 sono lì, arrivo alle 9 puntuali, giù, incazzato indietro. Ho un giubbotto, non mi tagliene, manco le mani che si traviene, anche lo grosso, a quel periodo. Pensavo, c'è Tocchini, la Braiana, e c'era Antonello, Angelo, il figlio, la moglie, e poi c'era un altro cibipù, non mi ricordo chi era. E tu questo da qua? Io, ma voi qua? Io, a me mi hanno detto venire qua. Una signora, madonna, una ragazza, occhio. Vabbè, da giù che c'è Stato Unito. Se non viene, vado a casa, alla radio, guarda, gli apro la Bibbia. Come stava a Redi Angelo, sta di Ferrere. Così, ma se c'è la Redi, la Redi c'è. Vado a Benigni, il sacco lungoso, liberati. Ho cominciato a incastrare, mica è ovvio, tu è, quindi io, quindi mia moglie, tua moglie, basta. Gianni era di Riusa, io non ricordo. Gianni era un metto di Riusa, appena entrato già non sa, a Puglia. Era meglio di me. E vabbè, purtroppo sono cose che capitano, ma non ti conosco, ma la conoscevi tu di persona? No, ma conoscevo Angelo molto bene, perché sa, con Angelo ci conoscevamo benissimo. Siamo presi in giro, capito? Tutto la messa insieme, praticamente. Ma io ero... Però facevo incazzato subito, bigliavo e partivo. E quindi quel bastardo mi ha Antonello, che... Guarda che poi sono ti ricordi che è nato prima di dicendo. Al bar che c'è... adesso mi ricordo bene, come si chiamava il nome. Era quella roba con insomma di arrivare a Gardiera. Ah, la campo ce l'avevamo, sì, al bar campo. Appunto, eravamo al bar campo. E noi abbiamo detto tutto l'oggi. Tutti detto, sono tutti l'oggi. Un cugnale e un cugnale mai, siamo la ricca, ti ricordo. Io sono tagliato la biata. Ah, ecco, non può essere. Allora, siamo attaccati a Angelo. Sono pure in vita di Gira. Ma tutti i nomi qui. Anche Guglielmo. sono tutti nuovi giorni, e parola, tu cosa vuoi? Io sto Giannino Giorbianchi, e ti ha tutti, io sono il Parviero. Come iniziato a venire, basta, ho fatto una cosa, ma mi cercate più al radio, che teniamo di cura. Ma che conta, no? Che chiamata me la voglio tu, Andrea, ma come la tessera? Tu però ti impegni, tanto che porta a disegnare. Anche quando ho pensato dubito, mi si incontra assieme, se vuoi sapere. Cosa cazzo, non mi ricordo una batteria di macchina, con le batterie. E ho tutto collegato io, vero? Ecco, sta un mezzo. Come fare a schiattare a Claudio Salviero, di splatter. Io mi a lui, nel canale gente, e si bugnato lì dalla giura, e io mi spostavo. Oh, ma con chi stai parlando? Oggi mi torisce a te, tu mi stai bene, e tu parlava il canale 22, tu perché sei sul 21, scusa, non per passare sul 22 a parlare con me. Ma io non te lo ci parlo, mi provocava, perché qui, perché là, ah, dice, ma io non mi dura. Allora cominciavo ad andare a gas, io andare a gas, senza di lui non amplificava voi. Quando si accendeva la portanza anche ai russi si spegnevano, ma dice, come dice, in via, ed era anche a Napoli, ero lì a 100 metri vicino a me. Si geniale, boom, boom, boom, si mette la portanza, si deve mettere la portanza, che c'è forza, e più a salvio più vita a salvia, più a salvia, insomma, non ne abbiamo corto piedi, tutta la notte a forza riportanti a 9.50, 9.60, cazzo c'era tutto Sassari, tutti silenzi, tutti ascoltando a noi, in tutti i rigorosi della morito. Dopo un po' fa anche, vai, giusti. E la poteva andare dal malacchio la sorte. Vabbè. Ma disturbava a me pure, Tanto che poco scusava dai appogliato al buio. Adesso mi ha fatto un verbale. Io ho cercato di dare una mano a quei tempi, ma non ci sono riuscito, È andato sul penale. Non so come ne era uscito poi Antonio, ma no, cosa avevano fatto? 10 milioni di verbali avevano fatto, e la parata mi sembra 4-5 la sua sera. Vabbè, non è stata bene. Ci ha salvato a metà, ce l'ha salvata la verità. Perché gli aveva fatto questo, era quello di sotto, che c'aveva il telefono, mentre aveva il telefono, gli chiedevano che ha fatto spaventare la bambina. Il medico che aveva gli avevo dato io, tutta la panchiatura, quella più che avevo data io. Da casa mia, la notte che ha fatto questa comunità lì, che arriva un sacco forte, e mette anche a me, infatti io la macchina avessi, ti giuro, si prende che si mette sotto a prendere le pasta, e dico che si è andata tutti in sotto. E mi ha preso le pasta in sotto. Ma immaginiamo che la roba tua, perché lui non ci aveva molto, capito? No, io ero già... Ero già alla Caraibi nel 90, 92 mi pare che era, no 93, ma cosa del genere, nel 93, sì, tanto lo comprende la notte, per carità di Dio, che era tutto Sassari in silenzio, due gol che erano i biglietti, non so bene, da destra, da sinistra, da centro, da nord e da sud, ma poi, poverino, ha preso quel colpo e poi l'altro, il colpo del 15.000 Angelo l'ha sistemato. Io niente baracchina, se non vuoi tornare, è già sabbia. Ecco, muscolare. Oh, il muscoletto. E me. Allora, Tino, che si dice? E tu invece a persona in piedi, ma a te devi andare. Allora, e mi ha detto, stavamo raccontando dei tempi, quando era un pochino più monello. Stavamo raccontando a Luca gli eventi di quei tempi, ma allora mi pare che ci sono salvati i denti. E piccolo, piccolo, che più nessuno, non ci sono più battaglie, lotte per la sopravvivenza, stiamo combattendo con la portante e basta, ma non c'è gusto, non ci sono più le forze motrici di una volta. Altri alla radio che per carità non facevo neanche accenderla. Allora, sì, vabbè, un'ottima, cioè, momento, prima ci si divertiva di più, o per via dell'età, o per via della crisi, o per via un interruttato, o meno. No, io sapevo che lì, l'ex di Gavina, ma grazie, se non mi sbaglio, sì, si era fidanzata e la cosa che avevo detto, quel ragazzo era un sacco di lavoro, non so, questo sono da tanto, sono 60 anni che hanno svegliato, figurati. E quell'altra, la piccola? Ah, boh, non lo so, non ho visto così. Anch'io, no. Una volta stanno a fare, eravamo lì con dei colleghi di lavoro, quando stavano facendo il sottopassaggio lì, c'era una condotta, siamo andati a rilevare delle misure, e sai, lì c'è il bar, loro mi pare abitassero lì vicino al bar, dove c'era quel vioccoletto che entrava dentro, e ero tutti di fronte io lì, però stavamo tirando i grilli. Io avevo il della canocchiare, stavo guardando, e c'era questa ragazza un po' fine, dai, sempre con la statura lì, che mi guardava, però io non ci ho fatto caso. Poi siamo andati a prendere il caffè lì al bar, e questa ragazza è entrata dentro lo stesso a prendere le sigarette e continuava a guardarmi, ma io cercavo di fare indifferenza, però mi sono accorto che poi, quando me ne stavo andando, è entrata dentro col giocoletto, quindi sicuramente era la sorella di Maria Grazia, perché era molto molto simile, capito? Io adesso la fisionomia non è che me la ricordo più, però era molto simile, mi ricordo questa fattura, questa piccoletta così, capito, un po' rossiccia, sempre lui a strada, vai sempre in brivaglia. Vabbè, non lo fa. Però sono fatto mancare, io ma con te, perché o perché vado l'azienda, o perché faccio la sola faccio la sentina. Comunque lì in quel bar fa fine giorno. Vabbè, ma appena fatto. Allora, a me dunque, io prima ero in Anglona, quindi ero al Covina, che mi hanno trasferito al Bibinizio, quindi nella zona di Alghero l'anno scorso. E l'anno scorso proprio, appena mi avevano trasferito, mi hanno fatto questo progetto, questa cosa che ci ha di arrivare queste condotte, queste misure. E siamo andati con la bambina lì a rilevare queste misure. E adesso cosa avevano fatto? Praticamente gli scavi che sopra c'era la sopraelevata. Ah, sì, ho capito. Ho capito. L'anno scorso l'ho sempre lì in azienda. Quindi, no, l'ho visto. Ah, vabbè, io sono bravo, no, come l'ho io. Io sono dove passare, io sono passato da poco, dall'altra parte, dalle parti di lì, dalle parti dietro i punti. Esatto, ma tu passavi da lì. No, noi eravamo proprio sulla vecchia strada, dove poi hanno fatto la sottoelevata e lì, dall'altra parte, avevano fatto gli scavi per fare il collegamento dell'acquedotto da Tronco Reale alla nuova praticamente strada che poi è nata, no? Alla quattro corsie, capito? E lì c'era questo grande scavo e c'erano quelli dell'impresa che stavano collegando la condotta, quindi siamo andati a rilevare le misure se effettivamente erano quelle le cose che stavano piazzando, capito? Con un assistente contrario siamo andati. Abbiamo rilevato queste cosettine e niente, poi siamo andati a prendere il caffè e nulla. Ma vabbè, io ero sempre a nulla, lo sai, no? Ho fatto 4 anni e mezzo a nulla. Adesso mi hanno trasferito a Valghero e quindi mi occupo lì di Santa Maria La Palma, tutti i pozzi, Pertiglia e Monte Agnese. Sono lì in giro, infatti una mattina vado a controllarmi, a farmi un po' di lettura dei pozzi, un controllino veloce, a tutto l'impianto di Olmedo che controllo e che fisco io proprio. E niente, infatti questi controlli qui e poi non ritorno, tanto che sandwich all'otto, bibilio di caffè, tra andare a Monte Agnese, prendere la macchina in servizio, iniziare a fare i controlli, sono già alle 11, quindi me ne rientro presto. Con la stanza che non ci sia col freddo di stamattina, si attiverà la Biancaracci. Quando il volante va a lavorare tu hai ordinato l'antenna, tu non hai ordinato. Una ne ho ordinato io, anzi la verità ne ho ordinato due, una io e una Franco California, capito? Ne abbiamo ordinato due in continente, il prezzo è anche buono, non più di 90 euro. Poi buono c'è, no? Ce l'ha quello delle conce, ce l'ha quello delle conce, ma ne vuoi 140 euro, però. Comunque fammi sentire a Franco domani se riusciamo a recuperare l'ordine, che ancora si può recuperare, le tue telefonare anziché due di ordinarne un'altra. No, c'era. E poi arriva che se già prendiamo un attestato quello che diciamo 213, vuol dire? Io ne ho preso, mi ha arrivato una mattazza da 100 metri. Però non so più sentito, pensavo di aver distaccato tutto. Ma già ti dovevo telefonare, fammi sentire, vedere. Però in radio non si è più sentito, ho preso una mattata da 100 metri. E ce l'abbiamo divisa con Franco, 50 metri lui e 50 metri io. Ma è capote, ma non è così importante che ce l'ha, non ti preoccupare, ma io giusto, sai, quando si condivide, allora vado, lo abbiamo fatto. Non ti preoccupare per quello. Quindi per me, non ho ancora le figlie per la mano, figurati. Aspetta, rispondo al prezzo. Sì, grazie. Ora è telefonare, ha rimandato un messaggio e gli sta telefonando già mezzanotte e mezza. Chi è l'aria? Oh, l'aria è assinata Alghero, a vedere, a fare il cinema Alghero. Mi sono preso una casa con gli amici. Vai, vai. A 18 anni mamma, dopo che era gelo era nanna, capito? Invece lei già un paio d'anni che vale, e va, e va. Adesso prendo la patente. Ma se io vado al ghiero, noi ti si posso andare, no? Io, ma tu vieni con lui, se no, no, no, io sono per i fatti miei al ghiero, abbiamo preso la casa con i miei amici di scuola, e raccontaci. No, no, non datemi voi, A conto suo, sì, a conto suo, oramai, ti rimane le macarrone da gabbo, per carità, uno non ha giovato, ma... Guarda, io sono convinto che l'ultimo lui, se non vedo, non lo riconosco, quello è poco ma sicuro. Oh, sì, è alta, mi pare, più di 1,70, fisico, ridici, asciutti, sempre andende. Già lavora, sta lavorando e studiando perché studia l'alberghiero, poi fine settimana se lo fa nei locali, qua a Sassari la cercano moltissimo, c'è un sacco di amici, grazie a Dio non mi ha mai dato un briciolo di preoccupazione, è una ragazza molto attenta, una ragazza molto abbastanza sveglia e niente, quindi mi ha dato fiducia e chiaramente glielo ho dato, solo che sai, quando esci così mi dispiace il passo caldo, e meno male dovevo andare a Londra, non c'è andata perché ha detto che non stavamo di ammazzare, se no se ne è andata a Londra. E vabbè, comunque, io ne approfitto a mandarti i saluti, che così almeno che poi consiglio e dovrò anche devo fare un bel disegno qua, devo andare via a cosa. No, la gente, vabbè, lì comunque, lì vicino a casa. Che la stessa mia cognata mi aveva un po' di planta da tagliare, fammi lavorare, quindi sì che ti fanno lavorare. Comunque, ti faccio dire due lavori, dai, non so se ci sentiremo domani, io penso domani di essere a casa della madre Marisa, ma magari quando rientriamo, andiamo a prima dell'azienda a fare da lui. Ti auguro con un lavoro, grazie, fate cose belle. Grazie altrettanto a voi, salutami tuo padre, tua madre, Lella, Marisa, tutti, tu, ci sentiamo sicuramente presto, ti auguro a te un buon fine anno, un buon inizio, un buon tutto, come tu desideri, anche come vecchi tempi, salutami tanto a tuo padre e a tua madre, e poi con calma già vengo a trovarti, dai, un fine settimana che ho questi turni, mi stanno ammazzando comunque, appena mi libero vengo a farmi un cicchettino. Stammi bene, sì. Buonanotte, tantissimi, tantissimi auguri ancora a te, famiglia. A presto, a sentirci. Ciao. Ciao.